Scuola in controluce. Ve l'abbiamo raccontato anche nei GR questa mattina in tutte le salse. Da stamattina è infatti possibile iscriversi alla prima classe di ogni ordine e grado di scuola. Parliamo dunque di scuola dell'infanzia, primaria e delle secondarie, parliamo però solo delle scuole pubbliche. Iscrizioni da quest'anno, ed è la novità sostanziale, solo online. Ma il sito del MIUR stamattina ha avuto qualche problemino. Fra un istante ne parleremo con Giovanni Biondi, capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR. Voglio però ricordarvi prima che se avete qualche domanda, se avete qualche dubbio, potete approfittare della presenza di Biondi e quindi potete mandarci i vostri messaggi SMS al 349 238 6666. Approfittate della sua presenza. Vi ricordo peraltro che Biondi in questi giorni lo potete trovare anche sul sito sole24ore.com, che lì vi racconta proprio passo passo, ve lo fa proprio vedere come si fa questa benedetta iscrizione. Buongiorno Biondi. Buongiorno. Allora, l'ho vista, che spiega bene passo passo come si fa. La procedura non è complicata, ma comunque stamattina il sito è andato in tilt perché ho provato anch'io in effetti a effettuare l'iscrizione, non ce l'ho. Prima sono riuscita a entrare, devo dire la verità, mi sono bloccata sul codice meccanografico della scuola, ho avuto un attimo di... Poi ho provato a rientrare e non ci sono più riuscita. A quante iscrizioni siamo? All'una e mezza? All'1.05 eravamo a 13.002 domande già inserite nel sistema. 13.000 genitori, si suppone che siano genitori sostanzialmente, già alle 13 dunque hanno dato, si sono iscritte tramite il sito del MIUR. Pensate che stanotte, a mezzanotte e mezza, erano già 1.200. Biondi, io mi sono un po' stupita, ma cos'è quest'ansia di dover iscrivere il primo giorno i figli a scuola? Vabbè tutto, ma c'è tempo fino al 28 di febbraio. Esatto, sì. Infatti non c'è nessuna ragione, anche perché non si acquista nessuna priorità a iscriverli immediatamente, per cui abbiamo messo in linea anche la scuola in chiaro, che è appunto una funzione che serve alle famiglie per individuare la scuola, anche per vedere l'offerta formativa e tutti i dati della scuola, e che dovrebbe essere preliminare poi alla scelta della scuola. Quindi questa corsa è difficile da comprendere. Difficile da comprendere, ricordiamo il 28 febbraio, la data ultima, non è un click day, questo lo chiariamo ancora una volta, cioè non è che l'ultimo che arriva male alloggia. Assolutamente, le scuole che pur, almeno alcune scuole hanno il problema di dover limitare gli accessi perché sono troppo richieste, avranno altri criteri comunque per selezionare i ragazzi, sì, lo vogliamo ricordare? Ma sono criteri che vengono scelti a livello di ogni singola scuola dal consiglio d'istituto, per cui sono criteri più vari, ma non certamente quello del primo che si è iscritto, insomma, quindi sono legati, che le posso dire, in alcuni casi danno priorità se ci sono dei fratelli già iscritti nella stessa scuola, danno priorità sull'area, diciamo, geografica dove la famiglia risiede, insomma ce ne sono varie di... Insomma, i ragazzi di zona, poi alcuni guardano invece il consiglio orientativo del, ovviamente parliamo delle scuole superiori in questi casi, guardano il consiglio orientativo dato all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Quindi state tranquilli, il primo messaggio che vogliamo dare è questo, vero Biondi? State tranquilli, c'è tempo, non c'è. Allora, tempo, si può iscrivere 24 ore su 24, per cui... E quindi c'è anche il tempo per spiegare meglio alle famiglie come si fa. Come si fa questa benedetta iscrizione? Perché stanno già arrivando un po' di richieste. Per esempio una signora dice: io ho già fatto l'iscrizione alla scuola materna comunale con il cartaceo, è a posto? Deve... No, la scuola materna è fuori dalle iscrizioni, noi nella scuola... dell'obbligo inizia con la prima elementare, per cui... Quindi per il vecchio asilo, la scuola dell'infanzia va bene anche il cartaceo? Oltretutto se questa è una scuola comunale sarebbe una scuola paritaria e quindi certamente va fatta con i modelli della scuola del comune. Perché per le scuole paritarie, ricordiamo anche questo, che sono anche alcune private sostanzialmente, ma non tutte, invece valgono i criteri che le scuole stesse si danno, insomma. Esattamente. Ecco, per tutti gli altri invece cosa devono fare? Ma cioè, ripeto, la prima fase è quella di andare a cercare la scuola e cercare le scuole, magari anche si possono cercare con un criterio geografico, c'è una funzione che dice voglio tutte le scuole secondarie superiori che sono nel raggio di 3 chilometri dalla mia abitazione, uno le vede, le può visitare, può vedere l'offerta formativa, gli indirizzi sono attivati, gli orari, diciamo perfino l'età degli insegnanti e quindi ha veramente una visione a 360 gradi della scuola. Poi una volta che ha individuato la scuola, direttamente da quella funzione, in alto c'è un'icona che dice vai alle iscrizioni, andando alle iscrizioni si porta dietro anche il codice meccanografico, quello che l'ha bloccata stamani e quindi non c'ha bisogno di fare niente, mette tutti i dati del genitore che lo iscrive e poi il dato del figlio o dei figli, perché lo puoi scrivere anche per uno dei figli, certamente. E lì ci sono poi le schede che sono state personalizzate da ogni scuola, perché ogni scuola magari ha certo. Un senso musicale, chiede Biondi, ma se io il computer non ce l'ho, non lo so usare, sono un po' imbranato. Va nella segreteria o della scuola che sta frequentando attualmente suo figlio o di quella dove lo vuole iscrivere e la segreteria farà l'iscrizione. Ecco, però ci sono alcuni problemini, non solo appunto perché il sito di stamattina è andato in tilt, ma si spera, che previsioni, quando è che tornerà attivo? Già sono migliorate, per cui infatti alle 12 di oggi sono state inserite 4.300 domande in un'ora, per cui insomma. E poi ci sono altri problemi, nel senso che ad esempio abbiamo sentito nei giorni scorsi Oreste Giuliani dell'Uncem Toscana, un'associazione che rappresenta i comuni montani, dice qui da noi molte segreterie l'hanno tolte perché con l'accorpamento degli istituti noi le segreterie non ce l'abbiamo proprio, abbiamo dovuto aprire addirittura i comuni, insomma gli uffici del comune per assistere gli utenti che dovessero avere difficoltà, perché da noi in montagna molti non hanno il computer. Che sia vero o no, o comunque l'entità del problema non è chiarissimo, però insomma ce la fanno sì queste segreterie a seguire tutti e dove la segreteria non c'è? Ma guardi, facciamo un ragionamento pre-iscrizione online. Prima dell'iscrizione online in genere cosa succedeva? Che si mandava a casa il modulo veniva riempito, tornava a scuola e poi a mano le segreterie le dovevano mettere di tutti i ragazzi, quindi se almeno una parte, diciamo così, la immette direttamente da casa senza bisogno di andare a scuola, certamente le segreterie sono facilitate, perché fino altrimenti l'avrebbero dovute, diciamo, trascrivere a mano tutte, per cui non è un aggravio di lavoro per le segreterie. Ci sono delle scuole in cui la segreteria non c'è più, perché è stata accorpata ad un altro istituto. Questo è un altro tipo di ragionamento e riguarda giustamente le aree di montagna, perché è chiaro che nelle aree di montagna la segreteria, quindi la parte amministrativa della scuola, risiede un po' nel centro più grande, quindi le frazioni, diciamo, che possono essere dislocate sul territorio possono avere, diciamo, non hanno la segreteria, perché non è che ogni plesso ha una segreteria, ma in quel caso voglio dire o c'è l'accesso a internet direttamente dalla famiglia oppure basta un internet point o comunque un posto dove c'è internet, ma anche la stessa scuola in genere ha postazioni collegate a internet, non avrà la segreteria però ha, diciamo, postazioni collegate a internet e quindi il genitore potrebbe chiedere, diciamo, di accedere alla scuola, al plesso scolastico. Certo, quindi insomma non dovrebbe essere un problema. Poi noi nei prossimi giorni naturalmente faremo delle verifiche anche con le scuole per capire se ci sono, si registrano difficoltà. Vogliamo chiudere, Biondi, con un appello alle famiglie alla calma? Sì, io vorrei fare questo appello alla calma e soprattutto vorrei fare un appello a fare una scelta oculata, quindi andare sul sito appunto Scuola in Chiaro, fare una ricerca, andare a verificare bene l'offerta formativa, gli indirizzi, perché spesso le si fanno delle scelte per un passaparola, per informazioni empiriche, diciamo, raccolte da un passaparola tra i genitori, mentre la Scuola in Chiaro offre tutte le informazioni in modo sistematico e quindi certo, bisogna approfittarne. Grazie mille, grazie a Giovanni Biondi, capo dipartimento del MIUR. Scuola in Controluce si ferma qua, tornerà lunedì prossimo e staremo a vedere come le scuole hanno reagito a questa novità che ci ha regalato la Spending Review, le iscrizioni da quest'anno solo online. Scuola in Controluce.